Ventotene, senza data. A Parata Grande la città confinaria è sparita. I padiglioni delle nostre notti insonni sono stati abbattuti, al loro posto c'è il cantiere di un campo sportivo. Le raffiche spazzano le vie del paese, ma non c'è nulla e nessuno da spazzare, perché le strade sono vuote, l'isola è disabitata. Qui era la biblioteca, il regno di Maoaz, e là la nostra mensa, il regno di Pertini. Maoaz è morto da tanti anni, torturato e fucilato dai tedeschi 3 giorni prima che i partigiani liberassero Trieste. Pertini è presidente della Repubblica. Quello è l'orologio che non faceva mai l'ora giusta. Che la fa adesso? Ha 2 lancette uguali, entrambe corte. In ogni momento segna 2 ore diverse. Manca poco al tramonto, a ovest è sereno, dal continente invece avanza un fronte di nuvole scure, il mare si agita, schiuma, nerastro. In mezzo ai flutti, Santo Stefano, col suo carcere, là in cima, è un profilo gotico, da romanzo di Anne Radcliffe. Ischia, già accesa di luci, si staglia sulla tenebre incombente. Da questo muretto guardavamo arrivare le navi, dalle navi le scialuppe coi nuovi confinati. Mi avvio verso le rovine di Villa Giulia, le supero, proseguo fino a Punta Eolo, oltrepasso il terreno che Spinelli coltivava a patate. E arrivo allo Strapiombo. Ritto su quest'ultimo avamposto che punta a nord come un ago magnetico, contemplo il mondo diviso in 2 metà. A sinistra declina il giorno, a destra si alza la notte. Rumore di passi, dietro di me. Una donna cammina tra le pietre, controvento, guardando dove mette i piedi. Ha i capelli bianchi, corti, mi raggiunge, mi si affianca, mi prende la mano, come se ci conoscessimo. Di fronte a noi le prime luci di Gaeta e la massa del Monte Circeo. Tu sei la morte? Le chiedo. Lei ride rovesciando la testa all'indietro. No, no, che stereotipo. Io sto sognando. E tu fai parte del mio sogno. Anch'io sto sognando. Ecco, tutto si spiega. È l'intersezione dei rispettivi sogni. E fissa il mare, rapita dalle onde che si alzano e riabbassano. Chissà perché, mormora, e col rombo che fa il mare per udirla devo porre attenzione. Quando diciamo un sogno, è implicito che sia bello, e se non lo specifichiamo è un brutto sogno. Sogni che potessi dire belli, io non ne ho mai fatti. I sogni mi mettono sempre a disagio perché sono bislacchi, imbarazzanti, ma se me li ricordo è perché svegliandomi li ho interrotti, così non hanno nemmeno una fine. Oppure per te è così? Non saprei dirlo meglio, rispondo. Come mai sogni ventotene? Mi domanda. Qui ho trascorso 6 anni quando ero giovane, non ci sono mai tornato. Manco adesso sei tornato, non sei qui? È vero. Tu invece? Qui ho passato tante giornate come questa, fuori stagione, come suol dirsi. Mi stringe più forte la mano. Sogniamo ventotene perché stiamo morendo, vero? Almeno io. Sto morendo. E indica Gaeta. Laggiù. Sto morendo anch'io. Dico. E com'è la tua morte? Boh. Non ho morte. Una morte dolce? Sospiro. Mi sa che le morti dolci non esistono. Un istante di agonia, di ultima asfissia c'è sempre. Anche quando si dice di uno che è morto nel sonno, non si è accorto di nulla, io credo che non sia vero. Te ne accorgi in ogni caso. Nella veglia o nel sonno c'è il momento in cui annaspi in cerca d'aria per l'ultima volta. Però se quel momento fosse breve, dice, il più breve possibile. Ah, no. Ma chi lo sa, cos'è breve e cos'è lungo mentre si muove? A Gaeta si sono accese altre luci. Dove e quando sto morendo L'estate è appena cominciata. Io poco fa nuotavo nel Tirreno e adesso, dove muoio io, è quasi inverno, come qui. Quasi inverno di che anno? 1981. Io quasi 30 anni dopo. E luogo? Ma poco fuori un paesino di nome Focomorto, ma non mi ascolta più. Ha gli occhi chiusi, offre il viso alla tramontana. Ci siamo. Tienimi la mano, uomo misterioso, ospite del sogno, chiunque tu sia. E così. Questo è il momento in cui tutto converge e ridiverge. Pignosca e Cairon. Sì, annuisce, e il vento che solleva la frangetta. Conoscere il momento, questo conta.